sincerità per non perdere la sua verginità. E tu lo sai. In Inghilterra, che ne sai di un amore israelita, di due occhi sbarrati che mi han detto bugiarda finita.